Summertime di Elisabetta Fiorito. Buongiorno, buongiorno. Questa sera andiamo subito al Festival Internazionale del Teatro Comico, al Centro Storico di Sant'Omero a Teramo. E stasera, 17 agosto, l'apertura del festival a Paolo Händel con un monologo tutto sull'amore. Buongiorno Paolo Händel. Buongiorno, buongiorno. Sì, sì, almeno queste sono le dichiarazioni iniziali. Poi sai come si fa? Come si fa a parlare dell'amore e non guardarsi poi intorno? Ecco, quindi i riferimenti all'oggi, anche alla cronaca politica, mi scappano sempre. Ah, ecco. In qualche modo, sì. Sì, io vedo che il monologo è intitolato Il tempo delle susine verdi. Quindi che cosa vuol dire? Il tempo della gioventù prima che diventino o gialle o nere? La domanda è giusta e sacrosanta. Non so bene cosa rispondere, anche perché il titolo per me è più facile fare pensare a uno spettacolo, in questo caso un monologo, che pensare a come chiamarlo, al titolo, ecco. Le susine verdi però in questo caso è proprio una fase dell'innamoramento tra due elefanti, quindi riguarda questo. Sai, io se ci penso bene, sono stato in giro per l'Italia con i miei spettacoli per anni e anni, occupandomi della cronaca politica, l'attualità, sempre cercando, quando ci riesco e quando ci riuscivo, di essere poi puntuale volta a volta, e ho avuto voglia un po' di cambiare. Insomma, se ci penso bene, ho dedicato più o meno 20 anni della mia vita a Silvio Berlusconi, più o meno quanti sì, ma ecco, gli italiani ancora li dedicano proprio questi anni. Sì, però la differenza grossa è che Veronica Lario ci ha preso gli alimenti, e che alimenti, e a me Silvio non mi ha riconosciuto una lira, quindi ho un euro oggi, quindi sì, mi sono detto parliamo, guardiamoci dentro, proviamo a guardarsi dentro invece che guardare fuori di noi quello che accade. Poi ripeto, è un pretesto, è un gioco, perché poi dall'amore si passa al disamore, si passa alle amarezze oggi Ecco, ma io leggo ricordi di scuola, battute da osteria, invenzioni surreali, bizzarre storie di quotidianità, di quotidiana umanità, da Platone a Neruda. Insomma, il range è molto ampio. Esatto, addirittura direi da Platone a Neruda, l'amore da Platone a Neruda, passando per l'Amedeo Minghi di Trottolino Amoroso, ecco. Che è fondamentale, no? Perché raggiunti quei picchi, sì, quei picchi di Trottolino Amoroso. La poesia contemporanea, sì. Allora, Paolo Händel, quindi tu a questo punto, in questo spettacolo, sei sicuro che non lo citerai mai Silvio Berlusconi? Appunto è quello, guarda, ti posso dire che in realtà mi scapperà di farlo, però meno di prima. E già questo per me è un bel successo. Ma il gioco è anche su, vedi, a un certo punto interviene Carcarlo Pravettoni, no? L'industriale cinico e baro dei tempi di Mai Dire Go, l'uomo con gli affari nel sangue ma non nel cervello, lui, Pravettoni, che mi assomiglia moltissimo ma ha molti più capelli di me. Un parrucchino però sembra, non vorremmo... Sembra, vero? Sembra. Sì, una vaga idea, ecco. E io, pensa, siamo a Sant'Omero, mi risulta che Pravettoni da anni coltivi un sogno, il sogno nel cassetto, quello di interrare l'Adriatico e di asfaltarlo ben benino come Dio comanda, e si parla tanto di proteggere le coste italiane, dice Carcarlo, più protette di una bella colata di asfalto e cemento, chi le tocca più dopo, ecco. Mi sembra giusto. E lui quindi è il tuo alter ego? Sì, è esattamente l'opposto, quello che è Händel non è Pravettoni e viceversa, in tutto e per tutto. Ma Pravettoni come lo vede l'amore? Da Platone a Neruda oppure, non lo so, da Bombolo a... Ecco, brava, a Trottolino Amoroso, lui è più sul Trottolino Amoroso, Carcarlo. Mi dà l'idea pure a me che Trottolino è il suo genere. Sì. E poi vedi, parlando dell'amore... Una parte nuova che mi piace molto è dedicata ai più piccini, e cioè la difficoltà che abbiamo noi genitori o nonni di raccontare le favole di un tempo ai nostri piccoli, vanno aggiornate, no? Ecco, quindi c'è una riproposizione delle favole di sempre, in versione così contemporanea al genitore di oggi. Adesso però una ce la devi accennare. Cioè... Ma guarda, volentieri, il genitore di oggi si preoccupa di essere politically correct, come si dice. Certo, quindi il lupo cattivo non è più cattivo? No, bravissima, hai già capito il meccanismo. Ah, è animalista, il genitore è animalista, quindi il lupo non può essere cattivo. No, è il cacciatore la carogna che lo sbudella il lupo. Ma questo è già più facile. Il passo ulteriore è la favola di Biancaneve e dei sette nani diventa la favola di Biancaneve e dei sette diversamente alti. E certo, è certo. No, c'era anche un ottavo nano, era una trasmissione, ti ricordi? Sempre per ritornare a uno dei tuoi personaggi preferiti. Quindi, però c'è anche qui, entra perché Biancaneve alla fine scappa con un ottavo nano, che più che un principe azzurro, un cavaliere azzurro che la porta via promettendoli un futuro, si sa bene se di velina o ecco, però non voglio anticipare troppo. Quindi lei non farà più la principessa oppure le marmellate per i sette nani, ma andrà in TV, quindi insomma, sì. Capito. Quindi buttano anche così le favole di oggi. Ma sì, quindi... Biancaneve dice trovatevi una badante rumena e andatevene a quel paese voi, i diversamente alti e tutti quanti sette che siete, insomma se ne va via lasciando i sette nani e scappa col cavaliere azzurro. Allora, una cosa Paolo Hendel, quindi, ma per te... Ora, domandone, eh? Sì. Per te è possibile l'amore, come lo descriveva un po' Neruda, ai giorni nostri, in questa società un po' piatta, a schermo certo, piatti, certo. A schermo... È più che... Neruda diceva l'amore è uno scontro di lampi e due corpi da un solo miele sconfitti, questo è amare per Neruda. Quindi voglio dire, questo è l'amore è necessario, perché altrimenti ci si inaridisce. Si può fare la politica, va fatta con amore, è la bella politica, perché c'è la bella politica, o anche la non politica, ma insomma l'amore deve filtrare, è come il grasso buono nel prosciutto, capito? Ci vuole dappertutto. Io poi ho la fortuna di avere al mio fianco in questo monologo spettacolo un grande musicista virtuoso della chitarra che si chiama Ranieri Sessa, che ecco, per tutto il monologo gioca con me, con i suoi interventi, i suoi intermezzi e mi accompagna nell'impresa. Ecco, quello che volevo chiederti, no? Abbiamo sentito le parole di Neruda, però oggi non siamo un po' tutti quanti presi da questo amore da soap opera, no? Che dura tre puntate come poi succede, no? Nel jet set dove le veline si lasciano con i calciatori, poi si rimettono con altri calciatori, però poi forse con il presentatore è un po' difficile seguire tutto quanto. E la televisione ci rincitrullisce molto, ne so qualcosa io che passo ore e ore col telecomando in mano, a volte anche con la televisione spenta, pensa quanto sono rincitrullito. Però, quindi è la sindrome dell'uomo che si addormenta davanti alla televisione, questo che ci stai dicendo, ci stai confessando questa tremenda, cosa. Lo so, in realtà la televisione ha il potere di tenermi sveglio, questo è ancora peggio, di tenermi sveglio oltre la resistenza umana. Lì ridere però, ridere soprattutto di se stesso, per me è una bella cura, ecco. Fa bene alla salute e ti ridà un pochino un equilibrio quando ci riesco. Quindi va bene. Allora, abbiamo sentito una rivisitazione delle favole, però soprattutto Paolo Hendel, Il tempo delle Susine Verdi, con il grande ritorno di Cancarlo Pravettoni, che è il tuo alter ego, abbiamo sentito, musiche originali di Ranieri Sessa alla chitarra, per l'apertura questa sera del Festival Internazionale del Teatro Comico nel Centro Storico di Sant'Omero in provincia di Teramo. Grazie Paolo. Un bacio a tutti. Ciao ciao. Vattene amore, mio barbaro invasore, vattene un po' che pace più non avrò, il tuo nome sarà il freddo e l'oscurità e un gattone arruffato che mi graffierà e magari io ti chiamerò trottolino amoroso e dudù. Summertime. E noi... noi continuiamo a parlare di comicità dopo Paolo Hendel, perché vogliamo sapere quali altre performance ci sono proprio in questo festival del teatro comico, e abbiamo con noi Monica Zuccon, che è l'organizzatrice. Buongiorno Monica. Buongiorno, io sono la direttrice artistica, la direttrice perché artistica. L'organizzazione generale è affidata alla Fondazione Culturale Val Vibrata, istituita a partire appunto dalla gestione del festival. Io mi sono occupata della scelta degli artisti con la fondazione. Allora Monica, sì. Si parte con Paolo Hendel, Il tempo delle sussine verdi, abbiamo sentito. Partito alla grande. Poi è una settimana di comicità, andiamo agli altri spettacoli, a giovedì. Allora io dico subito una cosa, Paolo Hendel questa sera rientra nell'anteprima del festival, perché il festival, e ci tengo a dire questa cosa, è un festival internazionale per scelta artistica, non per discriminazione, un festival che non sceglie artisti italiani che lavorano in tutto il mondo, ma artisti provenienti da tutto il mondo, questo appunto non per discriminazione ma per scelta. A fianco a questi naturalmente tutta una rosa di altri artisti bravissimi, diciamo, facciamo fatica a chiamarli nuove leve, fanno parte della sezione Comici si nasce. Ecco, quindi domani, insomma, sera domani sera avete Domenico Lanutti per Comici si nasce e Davide Colavini e poi come artisti internazionali Donati e Olesen, e rappresentano Italia e Olanda, per capirci. Un duo comico surreale fortemente ispirato alle gags dei film muti e alle follie dei fratelli Marx. Sì, perché quello che accomuna un po' tutti questi artisti internazionali, ma anche logicamente, visto che devono farsi comprendere in ogni dove, è quello di avere un linguaggio molto molto semplice, molto facile, legato soprattutto alla clownerie, se così possiamo dire. Sono degli eterni bambini, dei pagliacci, come tali sono molto spesso irriverenti, naturalmente come i bambini sono capricciosi, fuori dalle regole, e questo diciamo clown che è in loro poi viene caratterizzato, e questo fa di ogni artista un artista unico, inimitabile, da quella che è la propria natura, la propria personalità, le proprie esperienze, e ognuno sceglie poi il proprio indirizzo. Di Donati e Olesen si può ben dire che loro sono veramente degli artisti a tutto tondo, perché oltre ad essere appunto legati a questa forma di spettacolo molto di clownerie, sono anche dei rumoristi, musicisti, sono dei mimi, dei trasformisti, come dicono loro, dei ciarlattani. Questa è una cosa molto molto carina, infatti parte del loro spettacolo è anche tanta musica, tanti suoni che in qualche modo completano quella che è la loro esibizione. Poi abbiamo sempre Comici si nasce, William Catania e Diego Carli per il venerdì, e invece Gardi Hutter come clown. Proprio, lei è proprio un clown. Sì, diciamo che lei ha maggior ragione rispetto a tutti gli altri, non userà assolutamente nessun tipo di sonorità. La sua comicità è una comicità di situazione tragicomica, il mondo che lei rappresenta è un mondo spietato e crudele, che naturalmente offre spunto al pubblico di un assoluto e massimo divertimento, perché sappiamo tutti che la comicità è decisamente cattiva, e lavora sulle debolezze dell'uomo nella vita, ne amplifica le distorsioni, rende ridicolo quelle che sono le normali attività del quotidiano. È una pluripremiata in tutto il mondo, ha scritto libri, ha realizzato spettacoli ovunque, ha partecipato a film internazionali, pensi che ha addirittura una tournée programmata fino al 2013. Quindi insomma un grande personaggio. Poi abbiamo sabato 20 agosto, va bene, per Comici si nasce, per Comici si nasce, per la mamma di Ado e Davide dal Fiume. E poi Laura Hertz, che invece è una commediante dagli Stati Uniti, lei. Agli Stati Uniti. È già stata ospite negli anni passati del Festival Internazionale. Noi abbiamo avuto piacere di riaverla, anche perché io ho fatto un po' un discorso, essendo stata incaricata quest'anno come direzione artistica, come accade quando si fa un discorso, a volte si perde il filo del discorso e si decide di riprenderlo, no? Allora dice dove sono arrivata e poi vado avanti. Laura Hertz è stata un punto di riferimento del dove siamo arrivati, e dopo la Gardi Hutter, ok, adesso andiamo in quella direzione. Laura Hertz ha una grossa esperienza di clownerie, la cosa carina è che lei gioca moltissimo su quella che è lei dice: io volevo essere una donna normale, no? Con una vita normalissima, poi ho scoperto di essere goffa, di avere questa eccentrica stramba, faccio fatica ad essere una persona tra virgolette normale. E questa ricerca continua di una normalità lei l'ha trasformata naturalmente in questa esibizione decisamente unica, in questo stile unico che è il clown, e che lei svolge come attività anche naturalmente nei circhi, nei teatri, nei cabaret, dove è possibile, insomma. Il 21 agosto, domenica, Comici si nasce, Harry Zaffa e Carlo Giuffra. Invece abbiamo Leo Bassi, che è francese però è nato negli Stati Uniti, quindi è un po' un giramondo, no? Esatto. Beh, cosa possiamo dire di Leo Bassi? Credo che parli da sé. Un uomo che parla 8 lingue contemporaneamente, correttamente, voglio dire. Ha un'eredità artistica, fa parte di una delle più grandi famiglie italo-francesi di circo. È specializzato nei numeri di antipodista, cioè acrobazie con oggetti tenuti in equilibrio e fatti volteggiare con i piedi. Lui è veramente uno stravagante, un provocatore, è anche un giullare, buffone, è impegnato attivamente nel rispetto delle tematiche sull'ambiente, contro la globalizzazione, è lanciato contro la politica e la piccola borghesia, come dice lui, scema. Lui dice che tenta di cambiare il mondo a suon di cazzate, questa è una cosa molto, molto carina, quindi questo si capisce, credo che insomma non potevamo non chiudere in bellezza, come apriremo questa sera in bellezza, insomma. Allora, ecco, ricordiamo una cosa, volevo dire, alle 21 invece, perché tutte le manifestazioni a partire da questa sera c'è solamente Paolo Ender, mentre domani sera parte la manifestazione alle 21, ogni sera alle 21, e c'è un piccolo momento di avanspettacolo gestito da me e dal mio collega Salvatore Esposito. Noi ricorderemo invece i vecchi artisti del passato, faremo un omaggio anche al grande Gaber, non poteva mancare Totò, l'Anna Magnani, faremo un omaggio anche ad artisti che hanno fatto grande la nostra televisione italiana, Paolo Stopperino Morelli, ci divertiremo un po' con canzoni del passato in quel quarto d'ora iniziale prima dell'inizio reale del festival. Quindi insomma abbiamo sentito un festival che apre stasera e che finirà poi domenica 21 agosto per una settimana di comicità pura. Abbiamo sentito il Festival Internazionale del Teatro Comico, tutti quanti a Sant'Omero in provincia di Teramo. Esatto. E noi chiaramente invitiamo le persone ad andare lì, perché si parte alle 21 e poi si finisce a tarda notte con film eccetera. Grazie a Monica Zuccon. Grazie a voi. E adesso noi andiamo ad Arezzo, sì, perché ad Arezzo si apre un festival un po' speciale, una sorta di SOS Arezzo Cabaret, che prevede oggi mini trekking comico, spettacolo itinerante da ridere. Allora chiediamo subito all'organizzatore Samuele Boncompagni di che cosa si tratta. Bene, intanto buongiorno a tutti i radioascoltatori. È un modo un po' originale per aprire la quinta edizione del festival dedicato alla comicità che organizziamo ad Arezzo, con questo spettacolo itinerante in cui abbiamo voluto dare questo titolo un po' accattivante. In verità poi non servono scarpe da trekking né lo zaino, basta avere, insomma, non essere troppo poltroni da voler rimanere seduti un'ora a guardarsi uno spettacolo comodi e portarsi un po' di buon umore dietro, perché andiamo a scoprire alcuni spazi dell'antico palazzo comunale di Arezzo, che è proprio nella città alta, in centro storico, a due passi da Piazza Grande, insomma nel centro medievale antico della città, tra interni ed esterni, tra cui anche insomma la torre dell'orologio in cima, in cui il pubblico, i gruppetti di pubblico troveranno vari artisti ad aspettarli. Partiamo da un grande artista che è anche un artista visivo, che possiamo definire un poeta graficomico, nel senso che Al Valenti disegna dal vivo in una lavagna molto grande con dei pennarelli, con tra l'altro un rullo di carta che alle volte fa anche scorrere per creare degli effetti visivi. È tutto creato di fronte al pubblico, addirittura alle volte chiama il pubblico ad aiutarlo a disegnare delle cose. Partiamo da una proposta così di spettacolo un pochino anche più onirica, fino anche ad arrivare alla magia comica di Alan Eleni, che in cui c'è un mago e una valletta che gli distrugge tutti i trucchi di magia. Abbiamo un omaggio al futurismo fatto da due grandi attori di area fiorentina, che sono Alessandro Calonaci e William Catania. E poi abbiamo sulla Torre del Comune il solitario performer Gianni Micheli, che farà una cosa musicale dedicata più alla città, in un momento in cui probabilmente i gruppi di spettatori che arriveranno in cima alla torre staranno il tempo a guardare il panorama mozzafiato che si può apprezzare da in cima alla torre, con questo accompagnamento comico musicale di appunto Gianni Micheli. Poi avete il 18 agosto Le poesie di Alberto, di Umberto Kovacevic, giusto? Sì, sì, in verità il nome sembra slavo, in verità anche lui è un attore di Arezzo, ha fatto anche lavora spesso a Roma, ha fatto molti film o film per la TV, è un gradito ritorno perché è una sorta di in città, una sorta di mattatore, uno dei primi che è riuscito ad uscire dalla città e a fare cose a livello nazionale, torna volentieri, tra l'altro farà un omaggio per la città perché Alberto Severi è un poeta d'inizio Novecento, non di eccelsa diciamo bravura letteraria, però è curioso perché ha scritto l'inno della giostra del Saracino, che è la rievocazione storica della nostra città. L'Allegro Franchino Show va di età satirico il 19 agosto. Sì, abbiamo pensato, è il 150esimo dell'Unità d'Italia, come possiamo festeggiarlo? E abbiamo detto festeggiamolo con uno spettacolo di satira dedicato all'Italia come è oggi, quindi non tanto sulla sua storia dei 150 anni quanto uno sguardo ironico sull'attualità, la politica, i costumi, la società dell'Italia di oggi, e a farlo sono appunto i Morini Bros, che sono i direttori artistici dell'Accademia Nazionale del Comico, faranno una forma di varietà, nel senso che sono canzoni, sketch, monologhi nella piena tradizione del varietà italiano, quello di qualità chiaramente, e il pretesto appunto è di far ridere parlando dell'Italia di oggi. E poi invece finite con il concorso nazionale Noi delle Scarpe Diverse. Il concorso è SOS Arezzo Cabaret, Noi delle Scarpe Diverse siamo i presentatori, perché SOS Arezzo Cabaret è un festival e un concorso nazionale che parte a gennaio con il bando nazionale, si iscrivono giovani comici da tutta Italia. E il 20 ci sarà l'attesa finale appunto del concorso nazionale, in cui si esibiranno 7 comici che arrivano da tutta Italia, da Agrigento a Padova, da Livorno a Roma, Salerno. Ognuno avrà 8 minuti di tempo per convincere la giuria ad essere votati. E ospite speciale della serata, siamo molto lieti di avere Adolfo Margiotta, che per la prima volta verrà ad Arezzo, per la prima volta tra l'altro in veste di attore solitario, mentre siamo abituati a vederlo assieme a Dolcese, insomma, in trasmissioni TV di culto, da Avanzi, Tunnel, Pippo Kennedy Show, insomma, però fa anche molto teatro, chiaramente le cose per cui si ricorda di più sono, so, Cichito e Pachito, la canzone Siamo due spermatozoi, insomma, ognuno poi ha, certo, i pezzi che, certo, quelli lì che di più. Che amano di più. Allora, ricordiamo l'appuntamento con SOS Arezzo Cabaret, Quando ridere è un'emergenza, e si inizia con un mini trekking comico questa sera. Ringraziamo Samuele Boncompagni che è stato con noi. Grazie Samuele, buon divertimento. Grazie a voi. Grazie. Summer Time. Adesso andiamo a Villa Sciarra, Roma, dove bisogna un attimo decidere se sposarsi, anzi se è meglio smettere di sposarsi, se si sa come fare. Questa è una commedia con Marco Falaguasta. Buongiorno Marco. Buongiorno a voi. Allora, è facile smettere di sposarsi se sai come fare. Quindi che cosa succede sul palcoscenico questa sera a Villa Sciarra? Si commenta tutto ciò che è già successo nella vita in questo caso, nel senso che diciamo che quando si hanno una quarantina d'anni, tra i 35 e i 40 anni, è un po' il momento dei bilanci della vita. E allora i nostri protagonisti si guardano indietro e verificano se tutto ciò che hanno fatto, se tutto il loro percorso di vita è stato un percorso consapevole o se invece in questo percorso hanno influito anche variabili diverse dalla consapevolezza, quali un po' quella casualità che nella vita c'è sempre e che forse rende la vita di ogni individuo unica, e se sono veramente convinti delle strade che hanno preso. Ripercorrendo il loro passato, diciamo, attraverso dei flashback che avvengono sul palcoscenico, e mettono un po' a confronto le loro esistenze, mettono a confronto ciò che sarebbero voluti essere con quello che realmente sono. Il tutto è condito dal linguaggio della commedia, quindi da un linguaggio brillante, da un veloce, divertente, tutto quanto. Nella fattispecie ci si focalizza appunto sulla scelta di sposarsi, nella quale ho riscontrato parecchie similitudini con la scelta di iniziare a fumare. Sì, infatti, ecco, Marco, ti fermo perché proprio voi avete proprio messo delle note ben precise, no? È la trasposizione in chiave matrimoniale del famoso metodo che ha consentito a migliaia di persone al mondo di smettere di fumare. Sì, sì, sì. Beh, perché diciamo che secondo me i percorsi per i quali si inizia a fumare e quelli per i quali ci si sposa molte volte rischiano di essere paralleli, rischiano di essere simili. Nel senso che quando metti in bocca la prima sigaretta e l'accendi non sai tutto ciò che comporterà quel gesto che fai. Non sai tutte le conseguenze del fumo, non sai soprattutto che poi se dovessi decidere di uscirne sarà difficilissimo. Tante volte anche la scelta matrimoniale è fatta su questi stessi presupposti, si incontra il tuo lui o la tua lei a seconda delle differenze sessuali e dal primo incontro mai e poi mai immagineresti, salvo rarissimi casi, immagineresti che quella persona che quel pomeriggio, quella sera casualmente hai incontrato può diventare la persona con la quale dividere la vita. E poi è quando dividi la vita con quella persona che ti rendi conto se quel giorno hai fatto una scelta consapevole o se invece poi a posteriori devi dire che quella scelta non è proprio quella più giusta di tutte. Siccome uscire dalle pastoie del matrimonio è un'impresa difficilissima, sia perché ci vuole una buona dose di coraggio nel prendere una decisione che interrompe la vita di tutti i giorni, ma sia anche perché sotto il profilo legislativo ed economico non è proprio una passeggiata uscire da un matrimonio. E quindi il parallelismo è proprio questo, che il desiderio più grande di ogni fumatore è quello di smettere, il desiderio di molti individui sposati è quello di smettere, quindi il parallelismo è quasi istintivo, spontaneo. Tra le altre cose voi praticamente fate poi una domanda, no? Dice: cresce esponenzialmente il numero dei divorzi, perché sì. Quando dici di avere due figli la domanda più ricorrente è: tutti e due con la stessa donna? Ormai è diventata proprio invalso nell'uso comune, no? Che è strano che un uomo, nel caso mio, insomma, un uomo di 40 anni, non so, per esempio nel mio caso faccio l'attore, sto nel mondo dello spettacolo, ogni intervista che faccio che dico che ho due figli, mi dico tutte e due con la stessa donna, perché ormai il 64% dei legami si interrompe, quindi dei legami matrimoniali si interrompe. E quindi oggi chi sta con la stessa donna per tanto tempo, con il stesso uomo a parti invertite, veramente viene visto come un qualcosa di strano, come un qualcosa di atipico, no? E poi, no, perché molto spesso la scelta di sposarsi è una scelta che viene fatta inconsapevolmente. Allora, Dario è un avvocato di successo, Adamello un appuntato dei carabinieri, Giuseppe un romanziere mancato con il cuore innamorato, e sono i tre che danno vita a questa commedia. Tu quali interpreti di ruolo? Io sono l'avvocato. Ecco, e questi tre uomini sono tutti e tre, hanno questo desiderio di smettere di essere sposati? Beh no, sennò sarebbe bastato un personaggio solo, ognuno ha delle sfaccettature, nel senso che Dario è un avvocato di successo ed è sposato con un giudice donna altrettanto di successo e altrettanto realizzata nella sua carriera, quindi di successo lui, di successo lei, sembrerebbe che, insomma, che i due abbiano tutto quello che serve per condurre un'esistenza felice. E Adamello, che è il carabiniere, è fidanzato da tanto tempo con una ragazza e è alle soglie del matrimonio, mentre Giuseppe, che è un romanziere mancato con il cuore innamorato, non ha mai dimenticato il suo primo amore, che però andava e veniva nella sua vita dettando tempi, modi e condizioni. Quindi sono comunque tre uomini che, chi per un verso, chi per un altro, vittime di un sentimento. E diciamo che è un po' continuo quella che è la mia cifra da un po' di anni, questo Sex and the City al maschile, nel senso che siamo abituati, infatti, a sentire le donne, no? Che parlano Marco, noi ci sembra che praticamente tu tratti gli uomini come se fossero un po' vittime di queste arpie rinni dette donne, no? No, io non considero le donne né arpie né rinni, ma anzi, considero le donne forse la più bella scoperta che il mondo potesse fare. però è proprio perché noi uomini ci hanno detto, ci hanno chiamato sesso forte, ma secondo me perché ha ragione dei fessi, nel senso ci hanno fatto credere di essere il sesso forte, ma di fatto sono le donne che poi dettano i tempi della nostra vita, sono le donne che la condizionano enormemente e sono le donne che in qualche misura la indirizzano nel bene e nel male. Voglio dire, c'è chi ha la fortuna di trovare veramente la compagna più giusta con la quale migliorerà come uomo, come individuo, migliorerà proprio la sua vita, la propria vita, ma c'è chi si imbatte invece nella donna sbagliata o nel sentimento sbagliato ed eccolo lì che il problema alla lunga esce fuori. Allora, è facile smettere di sposarsi se sai come fare, applicare al matrimonio il metodo che ha consentito a migliaia di persone nel mondo di smettere di fumare, una commedia scritta e diretta da Marco Falaguasta, che sarà anche in scena stasera a Villa Sciarra nel ruolo dell'avvocato, ricordiamo ore 21:15 al Giannicolo fino al 21 agosto. Ciao Marco! Fino al 21 agosto, ciao, grazie! Si tratta proprio del cane del nostro signor sindaco, siamo andati con la nostra truppe particolare a intervistarlo per avere notizie del suo ladrone. Padrone? No, padrone, mi scappò un lapis, scusa. Ecco, chiediamo, lei, signor cane del nostro signor sindaco, che cosa ci può dire a riguardo, vero? Ah, bene, bene, abbiamo qui il nostro traduttore simultaneo dal canese, il dottor Uruturu Uviscotto Laiuduru. Il cane del signor sindaco dice di fare nei cazzi nostri. Al mafficipio però i cazzi nostri se li fanno. Ma vorrà dire, Munici? Appunto, il mafficipio di Mafiopoli. Ma sentiamo l'inno nazionale di Mafiopoli! Ed ora parlerà il signor sindaco. Allora, illustri colleghi, oggi all'ordine del giorno l'approvazione di un palazzetto abusivo di rimpetto all'aeroporto. E quanto sarà alto questo palazzo? E che ne sa, c'ho 4 piani, 5, 6, 7, 8, un grattacielo tipo in Chicago! Ma ne esageriamo, e poi gli aerei da dove passeranno? E che minchia me ne fotte degli aerei, cambiassero rotta oppure ci costruiamo un bello tunnel! E noi andiamo a Cinisi, in provincia di Palermo, dove c'è una 3 giorni dedicata a uno dei grandi giornalisti, diciamo così, del nostro tempo, Peppino Impastato, e ci sarà una sorta di notte bianca di Cinisi. Peppino Impastato, lo sappiamo, fu ucciso dalla mafia, c'è stato un bellissimo film I 100 passi, e Giovanni Impastato, suo fratello, si occupa proprio di tenere viva la memoria dell'antimafia, è così? Sì, sì, è proprio così. Io vi ringrazio per l'invito, ringrazio i vostri radioascoltatori. Dunque, in occasione della Notte Bianca noi apriremo Casa Badalamenti, che è stata affidata a noi in base alla legge 109 sulla confisca dei beni, è stata affidata alla nostra associazione, dove apriremo le porte di quella casa e inviteremo tutta la gente a entrare, perché riempiamo quella casa di contenuti importanti. Ci saranno delle mostre fotografiche, una dell'associazione Asadin che si occuperà dei problemi dei beni confiscati alla Placido Rizzotto. Poi abbiamo un'altra mostra che riguarda un po' gli sbarchi a Lampedusa, una mostra molto interessante, e poi un'altra di arte contemporanea. Ecco, questo è un modo di spingere la gente ad entrare a Casa Badalamenti, a valutare questo grande luogo di memoria che sono i famosi 100 passi, cioè che partono da Casa Memoria, dalla nostra casa dove ha vissuto il nucleo familiare, e arrivano a Casa Badalamenti. Nella Notte Bianca noi cercheremo di valutare questo grande luogo di memoria e dare e riempire di contenuti quella casa, ripeto, che era la casa del boss, del mafioso Badalamenti, che ha ucciso Peppino Impastato. E proprio da quella casa è partita la decisione per uccidere Peppino. Ecco, ironia della sorte, oggi siamo noi ad aprirla con le chiavi della legalità. Quindi è possibile, questa è la vostra testimonianza, no? Anche se poi purtroppo si paga con la vita, è possibile cercare o sconfiggere la mafia, perché questa poi è una storia di una sconfitta, visto che è vostra adesso, è della vostra associazione Casa Badalamenti. Il 18 agosto nei locali della pizzeria Impastato invece si terrà il film Io ricordo di Ruggero Gabbai. Di che film si tratta? Ma si tratta di un film che è dedicato alle vittime della mafia, dove è stato anche menzionato dal Presidente della Repubblica. È un film di impegno civile, sociale, dove le vittime della mafia vengono intervistate, e nello stesso tempo diciamo che c'è la parte fiction che è recitata dall'attore Iannuccio, che rappresenta un padre che racconta al figlio la storia di Giovanni Falcone, quel figlio che è nato proprio il giorno che viene ucciso Giovanni Falcone, che fa il compleanno proprio. Ecco, e questo è il film, io ricordo, è famoso questo film di Ruggero Gabbai, e noi il 18 lì in pizzeria, la famosa pizzeria appunto dei 100 tassi, dedicheremo una serata alle vittime della mafia. Ci sarà anche l'attore protagonista Gianfranco Iannuzzo, che si improvviserà un monologo molto forte e poi si aprirà un dibattito. Ecco, quella pizzeria, diciamo, è molto simbolica proprio per questo motivo, perché durante il periodo estivo organizziamo tutta una serie di manifestazioni, non solo per mantenere viva la memoria di Peppino, ma per dare un contributo all'impegno, alla lotta contro la mafia. Il 19 invece, sempre nei locali, ecco, della pizzeria Impastato, verrà proiettato un documentario Zona Espansione Nord, Libera Repubblica dello Zen. Ecco, noi sappiamo che uno dei grandissimi problemi di Palermo è lo Zen, no? Questo quartiere satellite dove praticamente la mafia, la criminalità organizzata la fa da padrone. Sì, e noi proprio per questo abbiamo voluto dedicare anche una serata allo Zen, una serata anche di memoria, perché noi ci occupiamo molto di memoria, dove verrà proiettato un documentario ambientato lì ai nostri giorni, dove in quel documentario parleranno i protagonisti delle lotte degli anni 60, quando ci sono state le occupazioni delle case proprio allo Zen, e quando c'è stata anche la battaglia, la lotta per l'acqua, che in alcune iniziative ha partecipato pure Peppino Impastato, assieme a Vincino Gallo, assieme a Barbera e ad altri componenti, diciamo, in quel periodo di quel comitato, che hanno lottato tantissimo sia per l'acqua sia per l'affidamento delle case nel quartiere Zen alle persone che avevano di bisogno. Noi ricordiamo queste lotte e nello stesso tempo cercheremo di fare una proposta innovativa in quel quartiere, che ha bisogno tantissimo di servizi, ha bisogno tantissimo di assistenza e nello stesso tempo ha bisogno pure di persone che lavorino e portano avanti un impegno per sviluppare sempre di più una cultura per la legalità. Quanti anni aveva suo fratello quando è stato ucciso? Peppino, quando è stato ucciso, aveva 30 anni, era nel pieno del suo impegno, della sua lotta, era animato di quella grande voglia di giustizia e di libertà, ed è stato ucciso perché era scomodo, perché è riuscito a bloccare grandi progetti di speculazione sulla sua zona, perché ha preso in giro i mafiosi con le famose trasmissioni onda pazza dalla radio, e nello stesso tempo perché ha fatto leva su una cultura mafiosa. Lui era figlio di un mafioso e non ha rotto solo con la società, con l'ambiente dove lui viveva, ma soprattutto ha rotto con la propria famiglia. Infatti, lo ripeto, la nostra era una famiglia di origine mafiosa. E adesso lei invece continua, no, la lotta di suo fratello per una cultura della legalità. Sì, noi continuiamo anche nel periodo estivo, quando la gente si dovrebbe un po' rilassare, che si rilassa ugualmente, noi gli facciamo ricordare che siamo presenti, che bisogna stare attenti e concentrarsi anche nell'impegno di lotta contro la mafia. Io credo che, diciamo, più di questo, insomma, non possiamo fare. Giovanni Impastato, noi la ringraziamo, grazie di nuovo per essere stato con noi a Summertime. Ricordiamo che ci sarà il 17 agosto, in occasione della Notte Bianca di Cinisi, le porte aperte dell'ex casa di Gaetano Badalamenti, che fu poi colui che uccise Peppino Impastato, proprio per ricordare questo eroe della nostra Repubblica. Grazie infinite. Grazie a voi, grazie. Summertime. A Grottaglie, la storia degli scienziati che nel 1944 si riunirono a Los Alamos, New Mexico, per costruire con Einstein la bomba atomica. Il progetto Manhattan, studio per il progetto Manhattan, questa sera a Grottaglie in provincia di Taranto, e noi abbiamo qui a Summertime Valerio Tambone per capire la storia di questo spettacolo. Ciao Valerio. Ciao, buonasera a tutti. Allora, di che cosa parla lo spettacolo, come è strutturato e diciamo che cosa avete scoperto? Perché poi alla fine, quando gli attori si mettono a fare i ricercatori, scoprono tantissime cose. Certo, abbiamo più che altro voluto dare importanza ad una parte della storia che è stata quasi esiliata, ecco, dalla conoscenza, si preferisce non raccontare certe cose. Lo spettacolo è dedicato a Lise Meitner, la scienziata ebrea austriaca che scoprì realmente la fissione nucleare, la quale, al contrario di tutti gli altri scienziati profughi che corsero in America con Einstein a costruire la bomba, lei invece fece una scelta diversa, scappò in Svezia e per tutta la vita, forse ci piace pensare, che cercò di forse dimenticare o comunque di affrontare in un modo diverso la scoperta che forse non avrebbe mai voluto fare. Si dedicò all'uso pacifico dell'energia nucleare e poi morì nel 68. Ho immaginato un bambino nella sua stanza dei giochi, tanti giochi, finché trova forse quello che più le è congeniale, il mammoccio, il fantoccio che può distruggere, che può annientare, forse perché assomiglia troppo a se stesso, forse perché si sostituisce a un dio, e il dio, così come è capace di metterti al mondo, così appunto ti toglie. Valerio, tra le altre cose, tu fai questa riflessione in un momento in cui ancora non sappiamo mai che fine fece Majorana, no? Dei famosi ragazzi di via Panisperna, si parla sempre, no, di qualche scienziato che aveva la bomba però poi non l'ha voluto usare. Ecco, tu credi che questo sia possibile, oppure alla fine è molto difficile, quando poi hanno scoperto finalmente la possibilità di fare la bomba, l'hanno fatta? Guarda, lo spettacolo ha come figura centrale Josef Rotblat, uno scienziato che lui, era anche lui polacco, ebreo, lui in America ci andò, ma quando capì quello che stava accadendo, creò il progetto Pagwash per la pace, per disinventare la bomba, ma ecco, purtroppo sappiamo che non ce la fece. È uno spettacolo sulla sete di potere personale, al contrario dei gerarchi nazisti che ancora tutt'oggi insistono dicendo: noi dovevamo fare quello che ci veniva detto. Qui si parla di qualcosa di assolutamente personale, uno scienziato dedica tutta la vita, si sacrifica per lo studio, per la ricerca, ma a un certo punto, quando si seppe che i tedeschi non avevano la bomba, loro avrebbero potuto fermarsi, invece andarono oltre perché la bomba doveva essere un deterrente, eccetera, eccetera, ma si potevano fermare. Però il tribunale, ecco, dei crimini contro l'umanità, insomma, tutti coloro che hanno preso in esame i carnefici, non hanno mai voluto toccare questo aspetto. Loro comunque erano Einstein, erano i Nobel, perché tutti questi scienziati, poi quasi tutti, Otto Hahn per esempio, il Nobel l'ha vinto, quindi c'era in palio la propria carriera, la propria vita dedicata allo studio, alla ricerca. È una scelta difficile. È una scelta difficile se poi dall'altra parte hai i nazisti, no? Per cui esatto, esatto. Enrico Fermi, per esempio, che emigrò negli Stati Uniti, perché la moglie era ebrea, quindi sai, chi partecipò poi alla costruzione di questa bomba ce l'aveva un pochino di cose contro il Terzo Reich. Quando combatti contro il male assoluto, forse è lì che il problema si pone per la coscienza, no? Perché assolutamente, sta di fatto che questa bomba, poi io, poi naturalmente c'è un aspetto anche fortemente italiano, perché a livello scenico è veramente un mondo di giocattoli terribili che abbiamo messo in scena. Questa è una parte della storia che però quasi non ha toccato, non tocca nessuno, essendo stata sganciata in Giappone, l'Italia, tu per caso il 6 e il 9 agosto, che sono i due giorni della commemorazione, ne hai sentito parlare, hanno fatto qualche trasmissione, il TG2 avrà detto qualche cosa, ma non ci riguarda, perché sono i giapponesi, stanno dall'altra parte del mondo. Ma in realtà questo non è proprio così, perché per poterla creare, quella bomba, ci furono un sacco di esperimenti in Nuovo Messico, e questo ha ammazzato gente per tutti i decenni a venire, per le persone che in Nuovo Messico sono state contaminate dalle scorie radioattive. Naturalmente la riflessione si sposta al presente, perché con i referendum ci siamo tutti puliti la coscienza. Il punto è che ancora ci prova no? Ancora ci provano a giustificare la creazione di queste centrali dicendo, si sa, le centrali possono durare massimo 30 anni, Fukushima ne aveva 50 e qualcuno in più, quindi era un disastro annunciato. Cosa vuol dire questo? Che allora una centrale fino a 30 anni si può lasciare, si può permettere, no, che sia attiva, che funzioni? Basta un esperimento per costruire oggi queste centrali, un esperimento che vada male, per rovinare la vita della gente per tutti i decenni successivi. Vedo che tu hai anche fatto un passaggio, no? Perché noi stiamo parlando di bomba atomica, una cosa, di energia nucleare, che poi io posso assolutamente condividere le tue opinioni, di energia nucleare a scopi pacifici, cioè per produrre energia, è un'altra cosa. Però certo, tu l'accomuni, perché comunque dici anche l'energia nucleare per produrre energia è comunque negativa per l'ambiente, perché è radioattiva. E ricordiamo appunto che a Los Alamos, come dicevi tu, molte persone furono contaminate. Io ho letto, hai detto, se avevo per caso letto qualcosa sulle commemorazioni, mi è sembrato invece che quest'anno per la prima volta sia andato un rappresentante dello Stato americano a commemorare Nagasaki e Hiroshima. Diciamo che quello che ci dà un po' fastidio, questa bomba che era stata creata per distruggere il Terzo Reich, no? E poi alla fine tu ti rendi conto che è stata gettata inutilmente, perché la guerra era già finita, perché poi prima o poi i giapponesi sarebbero arresi, per cui si poteva benissimo finire così, c'erano stati già abbastanza morti. Ecco, questo forse è la riflessione da fare, no? Tra l'altro Nagasaki fu bombardata semplicemente perché torno su un'altra città destinata al bombardamento e il cielo era nuvoloso. E quindi cambiamo città, Nagasaki, questo è terribile. E poi diciamo anche fu bombardata magari perché gli americani dovevano dire ai russi in quel caso che avevano la bomba atomica, no? Quindi insomma questo è sempre un buco dell'umanità, no? Un buco nero. Allora ricordiamo quindi che per saperne di più abbiamo sentito Valerio Tambone molto molto combattivo anche sull'energia nucleare, il progetto Manhattan, Good and Evil Doesn't Come in Expected Package. Male e il bene non vengono nella confezione, nel pacco che ti aspetti. Aggrottaglia la storia degli scienziati che nel 1944 si riunirono a Los Alamos in New Mexico per costruire con Einstein insomma con le direttive la bomba atomica. Uno spettacolo curato da Valerio Tambone questa sera a Grottaglie in provincia di Taranto. Grazie Valerio. Forza Puglia, ciao a tutti. Ciao ciao. Sarà il paesaggio il protagonista della terza edizione del Festival dei Sensi 2011, che si terrà dal 26 al 28 agosto a Cisternino, Loco Rotondo e Martina Franca. Allora, Milli Semeraro è l'ideatrice. Che cosa vuol dire il paesaggio? Perché vuol dire tanto e vuol dire nulla. Il paesaggio vuol dire un occhio speciale sul paesaggio di questa area. Di questa valle bellissima che ha flora specifica, trulli, masserie bellissime e soprattutto vuol dire conoscerlo e anche tutelarlo. 500 cocomeri uniti uno in fila all'altro a formare una lunga spirale che galleggia nelle acque salate del Mar Morto. Alcuni frutti sono feriti ed esposti al bruciore del sale con la loro polpa rossa, come una figura femminile che fluttua. E con la proiezione del video Dead Sea, la terza edizione del Festival dei Sensi, omaggio all'artista israeliana Sigalit Landau, chiamata quest'anno a rappresentare il paese da cui è nata la 54esima Biennale di Venezia. Perché avete fatto questa scelta? Abbiamo fatto questa scelta anzitutto perché il video è bellissimo e poi perché nel progetto c'è sempre un capitolo aperto sulla biodiversità e in particolare sui frutti locali e nel programma è inserito un bellissimo intervento di un grande agronomo che si chiama Vito Bianco sui meloni e quindi su cocomeri, angurie, meloni e quant'altro e ci ci sembrava bello mostrare che cos'altro si possa fare con queste forme, con questi colori bellissimi. Poi l'asino di Martina Franca, razza allevata nella zona della Maggia dei Trulli e recentemente salvata dall'estinzione, sarà il protagonista dell'inaugurazione a Cisternino. Quindi avete scelto anche l'animale, abbiamo visto i cocomeri, poi invece nella natura l'asino. Sì, c'è un'offerta molto variegata, diciamo, che però in realtà è unita da un filo ben preciso. Questo bellissimo asino, veramente bellissimo, è una razza autoctona. Questi asini sono pochissimi, come diceva lei, recentemente salvati dall'estinzione, solitamente non sono domati e questa sarà un'occasione più unica che rara per vederne una parata di alcuni tra i più belli esemplari esistenti. Ringraziamo intanto Milly Semeraro, l'ideatrice. Ricordiamo l'appuntamento dal 26 al 28 agosto a Cisternino, Loco Rotondo e Martina Franca. Grazie Milly. Grazie a lei, buongiorno. Buongiorno. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia, Gloria Guerrera in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a summertime@radio24.it. Una buona giornata da Elisabetta Fiorito.